in primo piano. Venerdì 21 gennaio, l'apertura del Sole 24 Ore, flessibilità, le nuove regole, con un'intervista al presidente di Federmeccanica, Ceccardi, dialogo sui contratti del futuro, mentre tutti gli altri giornali aprono sulla vicenda Ruby con il richiamo del Vaticano. Vi segnalo sul Corriere della Sera, il Vaticano chiede più moralità. E poi, tra l'altro, sempre sul tema della flessibilità dei contratti, il Corriere intervista la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Cambio la Confindustria, dico sì alla partecipazione dei lavoratori agli utili. Vedremo ovviamente questa intervista. Ruby, la condanna del Vaticano per Repubblica. La Chiesa, più moralità, questo per La Stampa. Questi alcuni titoli di apertura, vedremo anche gli altri più avanti. Intanto voglio andare da alcune segnalazioni. La prima viene dal Corriere della Sera, dove il vice direttore Gian Giacomo Schiavi racconta questa vicenda in prima pagina, che ricorda e che richiama Paolo Cacciari. Il Cacciari cattivo, come diceva un tempo per distinguersi da Massimo, il fratello filosofo e sindaco di Venezia, ha deciso di dare una casa al figlio Tommaso, il leader dei disobbedienti, difensore delle occupazioni abusive dei centri sociali. Quindi il fratello di Massimo Cacciari ha deciso di dare una casa al figlio Tommaso. E per fare ciò, che problema c'è? Si è comportato, racconta Gian Giacomo Schiavi, come i padroni avversati di un tempo. Sfratto esecutivo all'affittuaria, una donna con due figlie, lavoratrice precaria, contratto co-co-co. Eccola qui il contrappasso di Cacciari Junior, che sfratta l'inquilina precaria, racconta pagina poi all'interno, a pagina 56, Gian Giacomo Schiavi, appunto per dare una casa al figlio Tommaso, leader dei disobbedienti, difensore delle occupazioni abusive dei centri sociali. Paolo Cacciari, insegnante, pacifista, assessore, onorevole di Rifondazione Comunista, si è comportato come i padroni avversati di un tempo, lo sfratto all'affittuaria. Per carità, sacrosanto diritto di Paolo Cacciari, del figlio contestatore, di rientrare in possesso di quel che è loro. La proprietà non è un furto, perbacco. Però certo, Gian Giacomo Schiavi annota questa vicenda che riguarda Paolo Cacciari in prima pagina del Corriere della Sera. E poi segnalo le polemiche che ci sono, ne abbiamo parlato due giorni fa e oggi materializzate in alcune interviste, in alcuni commenti, per l'uscita del film su Vallanzasca, oggi, credo da oggi, nelle sale. Michele Placido, il regista, parla in un'intervista al Fatto Quotidiano di Federico Pontigia, pagina 14: l'Italia è scioccata dagli scandali di Berlusconi, altro che il film su Vallanzasca. Così si difende Michele Placido, che poi dice: ho fatto un film morale, l'arte deve confrontarsi con la tragicità della vita, rappresenta un ragazzo che in 4 mesi brucia la sua esistenza. Le associazioni delle vittime le rispetto, ma non ne ho mai vista una per le vittime dello Stato, dei servizi segreti deviati o della polizia. E all'onorevole della Lega, che propone il boicottaggio del film, l'onorevole Cavallotto, che è stato nostro ospite, non l'ha neanche visto, ma si è scagliato contro il film. Stesse zitto, risponde Michele Placido, o affrontasse piuttosto la disunità d'Italia, la deriva morale e Berlusconi che ci sta trascinando all'inferno. È sempre così, no, Michele Placido? A questo proposito, però, invece il Corriere intervista una persona, una donna che io ho avuto modo di ospitare, credo, qualche mese fa, quando a Vallanzasca furono concessi le pene alternative al carcere, vale a dire la vedova del maresciallo D'Andrea Freddato, come raccontò anche a noi e dice al Corriere da Andrea Galli oggi, Freddato con 2 colpi attinti alle spalle, neanche l'ha guardato in faccia mio marito, che il 6 febbraio 77 uscì di casa dicendo ciao, ci vediamo a pranzo, dopo avermi fatto il solletico sotto il piede sinistro. Io avevo solo lui, ero orfana, avevo solo il mio mondo, 2 bimbe di 6 e 3 anni e Luigi che ci proteggeva. Gabriella Vitali, oggi a 61 anni, suo marito fu ucciso da Renato Vallanzasca. Il film dice non mi interessa, non ci andrò mai, non voglio vedere mio marito che viene ammazzato. Oggi esce appunto nelle sale il film e la vedova dice noi non perdoneremo mai Vallanzasca, la vedova del maresciallo D'Andrea. Non vedrò mai il film su di lui, con agenti di polizia che promettono anche un volantinaggio davanti ai cinema, credo, a Bergamo. Questo Andrea Galli sul Corriere della Sera. Ci fermiamo la pubblicità e poi ripartiamo dalle notizie, sempre il caso Ruby in primo piano. Eccoci di nuovo qua riemersi. Allora, la vicenda Ruby certamente fa registrare ieri come titolo nei giornali il Vaticano che è intervenuto col segretario di Stato Bertone. Il Vaticano chiede più moralità, pagina 19 del Sole 24 Ore, ma è un po' l'apertura di tutti i giornali. Questo è anche il titolo, il Vaticano chiede più moralità, del Corriere della Sera. Con Bertone che ha detto la Santa Sede segue con attenzione particolare, con preoccupazione, queste vicende italiane, alimentando la consapevolezza di una grande responsabilità, soprattutto di fronte alle famiglie, alle nuove generazioni, di fronte alla domanda di esemplarità e ai problemi che pesano sulla società italiana. Queste le parole, insomma, siamo turbati, il turbamento del Vaticano. Tra l'altro Bossi vince per la reazione. Bossi ha detto, beh, facile parlare, lì non controllano in Vaticano, hanno controllato tutta la casa di Berlusconi, ma perché non hanno controllato anche là, riferito al Vaticano? Poi Bossi in serata ha un po' corretto il tiro dicendo non ho mai criticato il Vaticano, tantomeno il cardinale Bertone che conosco da tempo e considero amico, stimo molto. Sta di fatto che questa presa di posizione del Vaticano ovviamente suscita le reazioni anche dei commentatori. Amedeo La Mattina, pagina 3 della Stampa, scrive: per il Cavaliere è solo un avvertimento, secondo i più vicini a Berlusconi poteva andare anche peggio, era il minimo che Bertone poteva fare questa presa di posizione. E secondo la Stampa ora la contromossa è quella di un'accelerazione pro Vaticano sul testamento biologico. Per la verità la contromossa per l'Unità c'è già stata ed è un'altra. L'Unità la mette in prima pagina. Il prezzo del peccato, questo è il titolo, con la foto di Berlusconi, sullo sfondo c'è la cattedrale di San Pietro, dunque il Vaticano. Secondo l'Unità, ecco, 700 milioni per il perdono. Nella riproposta per il federalismo municipale, via l'ICI a tutti i beni della Chiesa. L'ultima corruzione, la definisce così addirittura l'Unità, rispunta l'esenzione ICI per la Chiesa, che nel primo testo era stata invece confermata. Invece nell'ultimo testo sul federalismo comunale viene confermata l'esenzione ICI alla Chiesa in origine eliminata. Un regalo da 700 milioni di euro al Vaticano proprio alla vigilia del Consiglio dei Vescovi, e l'Unità dice è il prezzo che Berlusconi deve pagare per ricucire con la Santa Sede la legge così. Sta di fatto che anche il Foglio dice, dopo il Vaticano anche la consonanza con Bertone, anche con il capo dello Stato Napolitano, così Napolitano smette l'abito da stabilizzatore per fare paura al Cavaliere. Questo è il commento di prima pagina del Foglio. Giorgio Napolitano, turbato, un po' irritato per le mosse di Silvio Berlusconi, ha inviato messaggi pubblici e privati sufficienti per mettere in allarme il centrodestra. Una vera grana per la maggioranza, perché Napolitano ha detto due giorni fa l'Unità e la stabilità di governo è un valore, ma non lo è ad ogni costo. E poi le parole anche di Bertone, insomma qualcosa che anche per il Foglio scricchiola anche come appoggio. Ovviamente sui giornali che cosa trovate? Sempre meno, perché il piatto grosso è stato già servito, ma anche oggi non mancano ovviamente le intercettazioni. E c'è da dire che per l'ennesimo giorno è sempre Libero che si distingue per mettere tutti gli stralci, 389 pagine dell'inchiesta su Berlusconi, tra l'altro titolate in un modo anche spassoso. A pagina 9, per esempio, vabbè, tutte la patata bollente. La patata bollente è il titolo di qualche giorno fa, quando è uscita la vicenda, e ora è il titolino di che accompagna tutte queste intercettazioni. Per esempio, in alcune intercettazioni, stasera farà schiattare tutte, il direttore del TG4 scatena la competizione tra le ragazze, Emilio Fede, a pagina 9. Oppure, le russe erano due valchirie, queste le osservazioni su Luca e Contegno delle ragazze inviate. E ancora, e questa è straordinaria anche perché in un italiano davvero, hanno beccato tutti tranne io. Questo una delle ragazze che parla dei regali ricevuti, e lei tranne io evidentemente è rimasta a bocca asciutta. E poi c'è, segnalo, il tormentone. Dopo le 10 domande che Repubblica, nel caso Credo Noemi, ha fatto per mesi e mesi e mesi, ancora mesi, arrivano le 10 menzogne di Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, pagina 2 e 3. Le 10 menzogne sono quelle di Repubblica, per Repubblica, di Silvio Berlusconi. Ecco le prove che smentiscono il Cavaliere, le 10 menzogne. 1. Non ho fatto sesso con Ruby. 2. Non ho minacciato nessuno. 4. È la 28esima persecuzione. 7. Milano è incompetente. 6. Hanno violato la mia casa. Ecco, tutte le menzogne, le parole di Berlusconi, ed avanzo che poi spiega invece che secondo lui non è così. Il Fatto Quotidiano invece mette in prima pagina l'inchiesta Ruby, la rivolta dei poliziotti, Berlusconi ci umilia, le forze dell'ordine contro il premier sono andate dal ministro Maroni, c'è un'intervista all'ex agente di Noemi, Letizia, Francesco Chiesa Soprani, che dice: ho lavorato anche con il TG4 e per lavorare con Emilio Fede dovevi starci, questo è il titolo. Insomma, ormai si sono un po' sciolte le briglie, la diga si è rotta e ormai ci sono interviste di tutti che parlano, tanto che Rino Formica, colui che inventò la famosa frase di nani e ballerine riferite al socialismo di Craxi, viene intervistato dalla Stampa pagina 5 da Fabio Martini e dice: ora è molto peggio, siamo all'orgia del potere, e addirittura suggerisce questa via d'uscita. Una via ci sarebbe. A me fa paura affrontare alla maniera di un tribunale stalinista, ma lo ha detto la famiglia. L'uomo è malato. Ovviamente parla di Berlusconi. Bene, dovrebbe farsi curare in una clinica svizzera. Questa è la via di uscita per Rino Formica. Il problema è dove mettere Berlusconi. Il Consiglio di Liberazione Nazionale offrì il governo Badoglio, Togliatti fece l'amnistia. Ora il sistema dovrebbe chiudere la stagione con una fuoriuscita dolce. Mediaset non si tocca, i beni non si toccano e lui se ne va ad Antigua. Questo Rino Formica, intervistato dalla Stampa. C'è Giulia Bongiorno, che è presidente della Commissione Giustizia della Camera, Fignana Doc, che su Repubblica invita le donne, noi donne calpestate, fa tutto un intervento, altro che privacy. È una ferita inferta alla dignità della donna. Le battaglie del Presidente del Consiglio mai hanno coinciso con le battaglie delle donne. Le donne devono farsi forti della loro dignità per esprimere a voce alta lo sdegno. Se credono, gli uomini continuino pure ad ammirare e sostenere Berlusconi. Le donne, per favore, no. Questo Giulia Bongiorno su Repubblica. Anche se vince, secondo me, nel nome dello, diciamolo chiaro perché un po' c'è lo sputtanamento che c'è in tutti questi giorni sui giornali, perché c'è a pagina 10 di Repubblica questa intercettazione. Parlano Barbara Guerra e tale Loddo, di cognome Miriam Loddo, due delle ragazze delle feste, e una, Barbara Guerra, diciamo: mi sono innamorata. E vabbè, poi aggiunge: porca troia, vabbè. E di chi? Non l'ho visto, è del Milan. Ah, è buono? Però è sposato e lei, la moglie, sta a Los Angeles. L'ho scoperto su internet. Ma come l'ho scoperto su internet? Parla di David Beckham, cioè una delle persone più famose al mondo, cioè ha scoperto su internet che David Beckham è sposato. Bene, Barbara Guerra si è innamorata, così dice, di David Beckham. E lui mi ha detto che fa il calciatore. È per questo che non ti ha detto che è sposato, dice. Ma che devo fare? È figo, che devo fare? E quella gli dice: amore, che devi fare? Vai, divertiti, fai una fattura, una macumba, immagino, sulla moglie di David Beckham. Cioè, nell'inchiesta su Berlusconi, Repubblica ci fa sapere a David Beckham, che sarà molto contento, e alla moglie di David Beckham, che sarà ancora più contenta, che probabilmente Barbara Guerra si è innamorata, ha frequentato David Beckham. Saranno contentissimi i signori Beckham di sapere tutto questo da un giornale italiano. La verità è che la faccenda è molto più politica, i giornali la mettono in minor risalto, ma è molto più importante, è questa: il federalismo, che ha avuto una battuta d'arresto. Infatti la Padania, titola, il quotidiano della Lega: federalismo, altrimenti al voto. Ancora oggi in prima pagina c'è il presidente dell'ANCI, sindaco di Torino, Chiamparino, intervistato dalla Stampa, pagina 7, che dice: la Lega molli Silvio e incasserà la legge, dica a Silvio Berlusconi di fare un passo indietro in nome di un governo con un fine preciso, la devolution, e incasserà la legge sul federalismo, perché Bossi continua a dire federalismo, voto, e infatti lo stop al federalismo, raccontato anche da Lina Palmerini sul Sole 24 Ore a pagina 21, dal Terzo Polo e dal PD lo stop, e c'è il punto di Stefano Folli, poco più in alto, che dice: ombre sulla legislatura, elezioni più di vicine, la Lega decisiva. Come un imbuto il cui condotto si restringe in modo inesorabile, il destino del governo e forse della legislatura si deciderà nel giro di poche settimane, scrive Stefano Folli, forse addirittura in pochi giorni. Diventa un problema ora anche il federalismo fiscale, i cui fili si sono all'improvviso ingarbugliati con il no dei comuni al testo Calderoli, un no che ha ridato spazio al centrosinistra e al Terzo Polo e crea inquietudine nella Lega. Questo no al federalismo, che infatti il manifesto mette in prima pagina con dei sindaci ritratti di spalle, si riconoscono dalla fascia tricolore, mal comune. Questo in prima pagina, tiro incrociato sull'asse Bossi-Berlusconi, i comuni si schierano contro il federalismo della Lega, chiedono di cambiare la legge che le opposizioni minacciano di non votare. E sul federalismo davvero la legislatura, molto più forse che sul caso Rubio, in questo incrocio rischia di più, molto probabilmente. Le informazioni sul traffico, poi ripartiamo dall'intervista che il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha concesso al Corriere della Sera. Rappresentanza e contratti, è ora di riformare la Confindustria. È un'intervista che Dario Di Vico sul Corriere della Sera fa al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che dice: a questo punto è venuta l'ora di riformare Confindustria. La trovate un'intera pagina, pagina 13. Replica a Giavazzi, che sostiene addirittura che Confindustria andrebbe abolita. Non sono d'accordo, dice Emma Marcegaglia, però certo va rinnovata. Cosa vuol dire riformare? Vuol dire rafforzare il ruolo delle unioni territoriali per essere più vicini alle imprese. E a Dario Di Vico, che dice: guardi che non c'è stato presidente che non abbia detto di voler riformare l'associazione, risponde Emma Marcegaglia: so anche che tutte le riforme di Confindustria partite dall'alto sono fallite, perciò voglio costruirla a partire dai territori, creando dal basso best practice, esperienze modello da emulare. Questo vuol dire anche meno convegni, più forza per i territori. Poi chiede Dario Di Vico: senza Mirafiori e Marchionne tutte queste idee sarebbero rimaste nel cassetto? Non ho remore a dire che considero la vicenda Fiat uno stimolo al cambiamento, ma le idee ce le avevamo già, risponde Marcegaglia. Dobbiamo uscire da un vecchio schema fordista di fare rappresentanza, un format unico per tutti. In campo sindacale vuol dire aprire ai contratti aziendali. Si fa rappresentanza quasi su misura, ma non è affatto vero che scomparirà il contratto nazionale. L'83% delle PMI lo vorrà, ma in parallelo. E infine, questa lunga intervista, sintetizzo, il capo della Fiat, che ha promesso salari tedeschi e partecipazione agli utili agli operai, dice: dobbiamo abbattere la spirale bassi salari, bassa produttività, e quindi dobbiamo avere come i tedeschi salari più alti, produttività più elevata. Sottoscrivo in pieno. Quanto alla partecipazione agli utili, dice la Marcegaglia, sono più che favorevole a soluzioni aziendali, non credo invece a una legge ad hoc sulla partecipazione. La trovate a pagina 13 del Corriere della Sera, e mentre sul Sole 24 Ore a pagina 3 parla il presidente di Federmeccanica, Pierluigi Ceccardi, intervistato da Nicoletta Picchio, sulla flessibilità proposta da Federmeccanica sullo slancio anche di quello che è successo la vicenda Fiat. Più flessibilità con regole concordate, l'intervista a Pierluigi Ceccardi, che dice: questo tema della flessibilità contrattuale particolarmente sentito in un settore come il nostro. La proposta non intende certo cancellare il contratto nazionale, ma consentire una più chiara definizione di un sistema contrattuale flessibile, adattabile alle esigenze aziendali laddove necessario. E su questo discuterà ovviamente anche Federmeccanica. Io di altre segnalazioni, il tema del nostro sondaggio lo sapete, è quello della scuola, un tema che è sempre molto seguito. Oggi ci concentriamo su questa decisione di una scuola milanese di premiare con 150 euro cash, soldi, denaro, banconote, i migliori studenti. Non è la prima scuola che lo fa. Segnalo Marcello D'Orta sul Quotidiano Nazionale, un commento molto duro: 30 denari agli studenti bravi, che brutta scuola. È un male o un bene dare soldi agli studenti più meritevoli? È un male, scrive D'Orta, un malissimo, se mi concedete il superlativo. Ai miei tempi un buon voto, la promozione era premiati con una semplice lode da parte dei genitori, con una coccarda tricolore della maestra. Si era fatto il proprio dovere e basta. Ora piovono motorini, vacanze a Sharm el Sheikh, capi firmati. Sbagliano i genitori e sbagliano gli insegnanti. Il messaggio implicito è: Tutto ha un prezzo, pure l'impegno, pure la cultura, la cosa di per sé non ha valore alcuno. Che ne pensate? Votate su radio24.it. È davvero sbagliato premiare con denaro gli studenti? Qualcuno dice va bene la premialità, è giusto premiare i più bravi, ma magari in altro modo, non con i soldi. Qualcuno invece dice no, invece è giusto premiare e magari è giusto premiare anche con denaro contante gli studenti che prendono tutti 8. Votate sul sito, ne parleremo alle 8.30, trovate anche molto di questa vicenda della Sacra Rota che ha annullato un matrimonio, ma la Cassazione italiana ha stabilito che siccome queste persone, il cui matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota, stavano insieme da una vita, restano per lo Stato marito e moglie. Il matrimonio dura da una vita, non può più essere annullato, così Anna Maria Bernardini De Pace sul giornale, ma anche sulla stampa. Maria Corbi racconta di questa vicenda, marito e moglie, ex per sempre, secondo la Corte di Cassazione, però questo matrimonio annullato dalla Chiesa non può essere annullato automaticamente dallo Stato. Una vicenda del ricorso di una signora veneta, che si chiama Maria Lorenza, ripudiata dal consorte col pretesto di avergli taciuto la sua contrarietà a diventare mamma, annullato tutto dalla Sacra Rota nel 91, ma poi ora la Corte di Cassazione ha detto non è detto il ricorso della signora accolto perché erano insieme da una vita e dunque restano per lo Stato marito e moglie. E infine, sempre perché c'è la crisi, ma non per tutti, a Londra c'è la casa più cara del mondo. Segnatevi questa casa, questo edificio, One Hyde Park. Meglio prendere confidenza con questo edificio, con questo indirizzo, all'angolo con Knightsbridge, scrive Fabio Cavalera sul Corriere. Sapete in questo edificio quanto costa un piede quadrato, che sono poi 30,48 centimetri quadrati? 7.082 euro, non al metro quadro, al piede quadro, cioè 30 centimetri quadrati. Un monolocale, 6 milioni 500 mila euro. Un attico, 159 milioni di euro. Filippo Aureggi, tu ce li hai per un attico a One Hyde Park? 159 milioni di euro. Chi sono i condomini? Il primo ministro del Qatar si è preso un attico. 159 milioni di euro, poi qualche tycoon russo, un paio di americani, qualche canadese, diversi medio orientali e un paio di cinesi nuovi ricconi alla faccia della globalizzazione e dell'apertura di Pechino al mondo. A Londra la casa più cara del mondo. Volete un bel attico? One Hyde Park, lo svendono, 159 milioni, a 150 forse ve lo portate via.